luoghi d'arte. Un cordiale saluto da Marco Carminati, sono nella bella Bergamo e voglio portarvi a fare un breve itinerario in città alla scoperta di uno dei più grandi pittori del Rinascimento bergamasco, che si chiamava Giovanni Battista Moroni, che è rimasto celebre soprattutto per i suoi ritratti, ma anche per le sue opere di carattere sacro. Questo itinerario è fatto intorno a un grande arrivo a Bergamo, uno dei capolavori assoluti di questo artista, il Sarto, un dipinto che oggi si trova alla National Gallery di Londra e che rientra a Bergamo dopo 160 anni, perché proprio intorno al 1860 questo dipinto venne acquisito dagli inglesi, che se lo portarono a Londra, proprio a Bergamo, se lo portarono a Londra, e lì divenne uno dei quadri più famosi della Pinacoteca. Questo quadro è stato portato all'Accademia Carrara, che è un'istituzione riaperta da poco al pubblico, che ha tra l'altro una sala meravigliosa di altri ritratti di Moroni, e quindi è un'esca molto preziosa per andare a visitare anche l'Accademia Carrara. È un quadro straordinario perché rappresenta un sarto. Pensate, nel secolo dei papi, dei grandi signori, degli imperatori, Tiziano che illustra solo Carlo V e la famiglia imperiale e solo i papi e i cardinali di casa Farnese, ha un contemporaneo, anche conterraneo perché appartenevano tutti alla Repubblica Veneta, che realizza un artigiano e lo nobilita nel suo lavoro con la sua forbice e la sua pezza. Quindi un quadro molto importante, molto toccante, da questa capacità di rendere la psicologia che Moroni aveva dei propri ritrattati, senza gerarchie, aveva i nobili ma aveva anche i parroci di campagna e aveva gli artigiani. Insieme all'Accademia Carrara c'è naturalmente il Museo Bernareggi, che ha la parte sacra, e poi da ultimo il Palazzo Moroni, che ospita all'interno nelle sue collezioni due ritratti famosissimi, uno dei quali è il più famoso di Moroni, cioè il famoso Cavaliere in Rosa. Uno spettacolo che vi invito a visitare, anche perché il palazzo è aperto solo per questa occasione.